America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Direi oggi lasciamo perdere le hard news, un venerdì culturale, torniamo a Frank Sinatra. Ve ne parlai un paio di giorni fa, l'America sta celebrando il centenario della sua nascita. Vi ho raccontato già appunto un paio di giorni fa la sua ascesa da questo piccolo paesino Hoboken in New Jersey fino a diventare il grande crooner all'inizio degli anni 40. Ed ecco che succede all'inizio degli anni 40. Succede che Frank Sinatra approda anche a Hollywood. She begged me. True. She Anchors Away, un film del 1945, due marinai e una ragazza, il titolo in italiano. Frank Sinatra con Gene Kelly impara a ballare, canta, salta, un film divertente, una commedia musicale, ma lancia Sinatra nella costellazione delle grandi star hollywoodiane. La sua carriera a Hollywood in realtà comincia un po' prima, nel 1941 c'è il suo primo film, Las Vegas Night. Las Vegas, tra l'altro, un posto che poi segnerà, come vedremo più avanti, una parte importante della sua vita. Ecco, insomma, in questa situazione ovviamente Frank Sinatra, che diciamo è un uomo pieno di vita, adora le donne, nonostante sia sposato con la sua Nancy, non può resistere alla tentazione di Hollywood, mille attricette, tutte che lo inseguono. Però che succede? Succede che a un certo punto nel 48, sul set del Bacio della Venere, che era andato a visitare, incontra Ava Gardner. Ava Gardner che diventa il vero amore, la vera ossessione della sua vita, e cominciano un affair proprio quando lui sta per diventare padre per la terza volta. Insomma, Ava Gardner gli fa girare la testa, lui la insegue in ogni angolo del mondo. Nel 1951 riesce a sposarla, però devo dire, Ava Gardner è una donna difficile, indipendente, fa quello che vuole e, come dire, si fa molto i fatti suoi, cosa che Frank Sinatra, insomma, avendo anche radici italiane, non capisce, non sopporta, lo fa letteralmente impazzire. E Ava Gardner comincia degli affairs, comincia ad avere delle relazioni con, soprattutto con dei toreri, prima comincia con Mario Cabre e poi con Dominguin. La relazione, come potete immaginare, finisce. Però è proprio sul set di Hollywood che poi Frank Sinatra incontra le sue donne. La terza moglie, Mia Farrow, la grandissima attrice. Fu uno scandalo, si incontrarono all'inizio degli anni 60 e pensate che Mia Farrow aveva appena 20 anni, 19-20 anni, e ha perso la sua verginità con Frank Sinatra. Poi lui l'ha sposata, ma il matrimonio è durato appena 2 anni. Si sono sposati quando lei aveva 21 anni e lui ne aveva 50. Fu naturalmente uno scandalo, i tabloid non parlavano d'altro. Ma sentiamo proprio cosa ha da raccontarci Mia Farrow in questo documentario di cui vi ho parlato nella puntata scorsa, un documentario della HBO che racconta in 2 puntate la vita di Sinatra. And then one day his lawyer appeared on the set with an envelope, a big envelope, a brown envelope full of papers. And he said, Mia, I have the papers for you to sign. I'm like, what papers? And he said, the divorce papers. And that's how I found out. Ecco, qui Mia Farrow dice che a un certo punto, dopo appena 2 anni di matrimonio, lei adorava Frank Sinatra, riceve le carte per il divorzio da parte dei suoi avvocati. Perché? Beh, perché Mia Farrow voleva la sua carriera di attrice, aveva accettato la parte di Rosemary's Baby, ma che Frank Sinatra non approvava, gli sembrava un film troppo spinto, non andava bene, gli ha chiesto di non farlo, ma lei lo fece lo stesso. Ci sono state poi molte altre storie negli anni tra Ava Gardner e Mia Farrow. Poi la quarta moglie, la moglie che ha vissuto con lui gli ultimi 20 anni della sua vita, Barbara Blackley, una donna molto bella, ma anche una donna più tranquilla. Time after time, I tell myself that I'm so lucky. Time Time After Time di Sammy Cahn, un altro grande successo negli anni 40 di Frank Sinatra. Ecco, che succede però con la sua carriera cinematografica? A un certo punto, nel 1950, scade il contratto cinematografico che aveva con Louis Mayer e a quel punto si trova in difficoltà perché non ha un altro contratto, perde una parte consistente del suo reddito, deve accettare dei contratti capestro per cantare sempre di più, per poter incassare, ormai ha un tenore di vita altissimo, vola sull'aereo privato e dunque deve mantenere questo tenore di vita. Insomma, il momento per Frank Sinatra è difficile dal punto di vista artistico, fino a che nel 1953 riesce ad avere la parte nel grande film Da qui all'eternità. You hit me. Yeah, and I'm about to do it again. Ecco, film, devo dire questo, che ha generato pettegolezzi, perché si dice, almeno questo lo si dice nel film Il Padrino, dove c'era un personaggio, un cantante, Johnny Fontana, che tutti identificavano con Frank Sinatra, e l'idea è che, visto che Frankie aveva delle relazioni, diciamo così, di amicizia con personaggi che ruotavano attorno alla mafia, riceve un favore. Si reca dal grande boss e gli dice: mi devi aiutare ad avere la parte in questo film, perché è un film che io adoro, devo assolutamente tornare sul grande schermo, mi deve aiutare. E il boss padrino, Marlon Brando, nel film Il Padrino, gli dice: beh, non ti preoccupare, avrai questa parte perché farò un'offerta che non potranno rifiutare. E la scena la ricorderete, la testa del cavallo sanguinante sul letto del produttore televisivo. Ecco, nel documentario si dice che in realtà le cose non sono andate così, che Frank Sinatra ha avuto la parte assolutamente per meriti artistici e che tutta la storia del Padrino è inventata. Ecco, c'è da dire che però, insomma, negli anni 50 Frank Sinatra, ormai quarantenne, comincia ad avere un po' di difficoltà, non ci sono più le ragazzine che impazziscono, sta esplodendo Elvis Presley che fa il rock. Però che succede? Beh, succede che a un certo punto, essendo un uomo intelligente, aperto, capisce che il mondo cambia, si incontra con Elvis e sentite cosa ne viene fuori, un documento storico, un duetto fra Frank Sinatra ed Elvis Presley. You do witchcraft, okay, and I'll do one of the other ones, okay? Nelson. The same way, only in different areas. Love me tender, love me sweet, never let. La sua carriera cambia, si evolve. Frank Sinatra, con grande intelligenza, capisce che deve, come dire, navigare in acque leggermente diverse prima di procedere in quello che sarà poi il periodo finale della sua carriera artistica. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Beh, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, in questa puntata, la seconda, perché ve ne farò poi una terza, un'ultima, conclusiva, abbiamo parlato anche delle donne di Frank Sinatra. E dunque, beh, un classico suo che ha fatto storia è The Lady Is a Tramp di Frank Sinatra. She never bothered with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.